la vita, come viene. Passa il tempo, come cambia il vento, gira lento, quanto è tanto che mi aspettavo sto momento, mosse mente per non dare torto al mio istinto, sei più un finto, e sapendo che tanto saremmo arrivati a sto punto, è un'ultima parola, un addio, non certo il mio, ma se ciò che vuole Dio, c'è poco da fare, c'è poco da dire, e non serve soffrire, che poi dentro è morire, se c'è qualcosa al di là di sto punto, a questo punto non sarò triste, quando un giorno sarà il mio di momento, vale la pena di aspettare, perché altro non si può fare, ora sono solo ricordi, rimorsi per quel che non si è detto, per quel ti voglio bene trattenuto, ora non c'è più tempo, il tempo è finito, quel che è stato, ora fa parte del passato, momento temuto, ora arrivato, passato, lasciato tra le pieghe di un destino che non ci appartiene, che non ci conviene, conviene lasciare stare ma non dimenticare, prendere la vita come viene. Gira lento, sento dentro un destino, inizio di un nuovo cammino, ora che non c'è più vicino, ora che mi trovo io innanzi a Dio, ritrovo in una foto, il caldo conforto nella speranza, negando a me stesso che sia accaduto, sapendo che tornando a casa sua, è lì che mi aspetta, braccia aperte, ma non è così, l'amara realtà, la fredda foto è bianco e nero, segno di un passato lasciato indietro, il caldo dei colori, il rosa della pelle, infinite sfumature, in notti passate a rivedere le stelle, lì nel vuoto, colmarlo impossibile, ora di quel che rimane sono fiori su una pietra, emozioni di vetro fredde in un anno passato e ancora forse non mi rendo conto perché so che è ancora lì ad aspettarmi, perché so che non ha potuto lasciarci o almeno non così, senza nemmeno un'ultima parola, senza nemmeno un ultimo saluto, ora che il tempo è finito, ora che il passato è lasciato tra le pieghe di un destino, ora che non ci appartiene, ora che non ci conviene, conviene lasciare stare ma non dimenticare, prendere la vita come viene, ora che viene come viene, non resta che accettare, gira il destino e non ci appartiene, a parte quando tutto va bene, poi ti accorgi che la vita è fatta anche di questo. Viene come viene, non resta che accettare, gira un destino e non ci appartiene, a parte quando tutto va bene, poi ti accorgi che la vita è anche questo, che tutto è ciclico, già, ma finché non tocca a te tutto va bene, ora il tempo è finito, è un passato, è lasciato tra le pieghe di un destino che non ci appartiene, che non ci conviene, conviene lasciare stare, ma non per dimenticare, prendere la vita come viene, già. 2002, è sempre la vita come viene, di fisso me stesso.